Linee d'ombra di Matteo Caccia. Per la prima volta ho sentito che c'erano dei suoni che non erano quelli della mia lingua. Questa cosa mi ha affascinato. Ho capito che il mondo non era piccolo come quello che mi circondava, ma c'erano altre realtà. Lettere C seguite dalla K, SC scritto con l'H finale, poi vocali con due puntini sopra. Non avevo mai visto qualcuno scrivere in quel modo. Ma come leggere quei suoni? Storie di un incontro con un professore tedesco e di un esame fondamentale in una puntata che si intitola Le lingue salveranno il mondo. Perché godete di questa fortuna? Perché delle persone illuminate che si chiamavano Altiero Spinelli, Alcide De Gasperi, Konrad Adenauer, Robert Schuman e altri, i fondatori dell'Europa Unita, hanno capito che non solo per necessità politiche ed economiche, ma anche per profonde ragioni di unità culturali, si doveva riconoscere il nostro continente come una patria comune. Anche se oggi l'Europa parla 24 lingue, ma cenerò dopo come si possa vivere in una patria dove si parlano 24 lingue, ma non dimentichiamo che esiste un piccolo paese che ha prosperato nei secoli sopportando che i suoi cittadini parlino quattro lingue diverse ed è la Svizzera. Tanto che una volta avevo scritto un saggio sulla lingua svizzera. Quella che avete appena sentito è la voce di Umberto Eco. Umberto Eco, filosofo, semiologo, linguista, uno dei più grandi intellettuali che ci sono stati in questo paese e che non ha mai avuto paura a dire le cose come stavano. Mi ricordo anche la sua idea riguardo ai social network e riguardo al fatto che prima, insomma, un certo tipo di persone potevano arrivare a dire certe cose, non tutte lo erano qualificate a farlo, ovviamente, ma alcune che avevano la possibilità di raggiungere certi canali potevano dire, esprimere le loro opinioni. Io, lui diceva, invece ora lo possono fare tutti, e questo, ahimè, è un pochettino come avere dato a tutti quanti quelli che si trovano in un bar la possibilità di dire qualsiasi stupidaggine, che detto in un bar è un conto, si possono dire, detto in una platea in cui tutti quanti possono fruirne e prenderlo per loro colato, può essere invece un problema. Insomma, è una cosa, devo dire, anche piuttosto combattuta e dibattuta questa sua affermazione. Umberto Eco non aveva imbarazzo a dire cose come queste, e non aveva imbarazzo a parlare di Europa. In questo periodo parlare di Europa è molto molto complicato, perché appunto quello che sta accadendo al nostro paese e agli altri paesi legati a questa emergenza sanitaria, diciamo, non è bilanciato da un'unità di carattere europeo, quantomeno di visione, men che meno di carattere economico, insomma, al momento. Ma tant'è, insomma, non sono la persona adatta a parlare di queste cose. Noi qui raccontiamo storie. Semplicemente, visto che Umberto Eco in questo estratto parlava di Europa, non potevamo non citarlo. Però usiamo questo intervento di Umberto Eco, che Umberto Eco fece al Quirinale, mi pare fosse il 28 novembre, ecco qua, 28 novembre del 2014, in una conferenza che si chiamava L'Europa della cultura. Parlava di come l'Europa fosse un luogo in cui si parlavano moltissimi lingue, 24 lingue. La usiamo perché la puntata di oggi si intitola Lingue salveranno il mondo. Raccontiamo almeno due, sempre di più, ma due storie che hanno a che fare con questo tema. Come parlare lingue diverse, conoscere lingue diverse, ci possa permettere quasi letteralmente di salvarci. Perché capire che abbiamo davanti va da sé, ci permette di capire il mondo che abbiamo intorno. È proprio come quando andiamo in vacanza. I miei genitori fanno sempre molta fatica ad andare in vacanza all'estero, perché dicono, vabbè, ma non capiamo la lingua. E mia sorella, ma sì, ma vi fate capire a gesti, un po' di inglese lo sappiamo tutti. Invece loro, evidentemente, perché appartengono a una generazione per la quale conoscono la lingua, vuol dire parlarla perfettamente. Oggi questa cosa succede sì e succede no, insomma, c'è un inglese sparpagliato in giro per il mondo che permette a quasi tutti di capirsi in maniera basica. La puntata di oggi però non parla solo di lingue, parla di cultura, parla di, in qualche modo, di conoscenza, poi ne parla come facciamo qui a Linee d'Ombra, no? Cioè raccontando delle storie, e in questo modo il confine, la linea d'ombra che si trova in mezzo alle storie che vi raccontiamo, è proprio il confine sottile tra il capirsi e il non capirsi, ma soprattutto tra il conoscere e il non conoscere. Mentre preparavo questa puntata a casa, come stiamo facendo tutti ormai da diverso tempo, io in questo momento mi trovo di fatto in questa studiolo, che un po' è studiolo ed un po' è il luogo dove appendiamo gli abiti, io e la mia compagna, non essendo troppo grande la casa, troviamo il modo per appendere un pochettino ovunque. Gli abiti però aiutano ad attutire il suono, come se fosse in un piccolo studio. Insomma, mentre preparavo questa puntata mi è venuto in mente una lezione molto particolare che feci con il mio insegnante di filosofia al liceo scientifico statale Alessandro Antonelli di Novara, in terza liceo, quindi il primo anno di filosofia per il liceo scientifico, almeno 20 anni fa. Arrivò questo insegnante che era molto giovane e che aveva voglia, aveva veramente voglia, onestamente voglia di insegnarci delle cose, e ci stava anche a sentire, ci dava retta. Noi eravamo dei cialtroni, come spesso succede a quell'età. E dopo qualche mese, io credo fosse verso la fine dell'anno scolastico, quando di fatto noi ci eravamo un pochettino giocati le chance che avevamo di imparare delle cose, lui un giorno arrivò ed era veramente furibondo. Io ricordo questa frase che lui ci disse: voi state perdendo un'occasione enorme, non impegnandovi, non studiando, non essendo curiosi, vi state perdendo una enorme opportunità. E non capivo che cosa intendessi. Dicevo: ma come? Ma che opportunità? La sfanghiamo, cioè pigliamo il nostro voto, andiamo a casa, veniamo promossi, arriva l'estate, liberi tutti. Quella era chiaramente la mia idea dell'epoca, probabilmente l'idea che avrei anche adesso se avessi quell'età. Purtroppo, come succede, col tempo e con la vecchiaia alcune cose si capiscono, e quella frase, state perdendo una grande opportunità, me la ricordo piuttosto spesso. La puntata di oggi si intitola però Le lingue salveranno il mondo. Parliamo di questo, parliamo di conoscere le lingue, quindi mettetevi comodi, benvenuti a Linea d'Ombra. Sono sempre stata attratta dai suoni delle parole. Da bambina, mentre li sentivo echeggiare nell'aria, immaginavo di poterli catturare e stringere tra le mani come tante farfalle. Era magia pura per me, che le lettere potessero raddoppiare, legarsi tra loro e cambiare completamente il suono di una parola, oltre che il suo significato. Bastava un accento e il papa diventava papà, una doppia e la signorina Pina diventava una pinna. Un H e il ceto si faceva cheto. Trascorrevo ore in compagnia delle parole nella mia stanza, tra i tetti di tegole rosse nel cuore di Vicenza. Sullo sfondo la sagoma inconfondibile della Basilica Palladiana. Rime, ritmo e suoni erano per me treni del ritmo, girotondi di cadenze. Le vocali dell'articolo indeterminativo, mi aveva spiegato la maestra Laura, si aggiungono perché la pronuncia sia più scorrevole. Ecco perché si dice uno psicologo e non un psicologo. Quella O è come uno scudo capace di proteggere la nostra lettura. E così vennero altri pomeriggi trascorsi a inseguire parole. Uno pneumatico, ad esempio, dove la O correva come una ruota sul selciato della mia fantasia di bambina. Molto era chiaro ormai, secondo me, riguardo alle regole della grammatica, o almeno pensavo così. Finché un pomeriggio, per poter sbrigare delle commissioni, mia mamma mi affidò al vicino del secondo piano, il professor Tosin. Io ero una bambina piccola, piccolissima, davvero, abitavamo a Vicenza in questa casa nel centro storico, e il professor Tosin mi abitava sotto, ed era un pittore tra l'altro, ma era soprattutto un professore di tedesco e francese, era un germanista, una persona molto esperta. Lui era un signore molto gentile con me, bambina, molto cortese. Il professor Tosin era un vecchio professore di tedesco di una magrezza sofferta e scavata. A volte aveva delle fitte al petto e faceva fatica persino a respirare. Una volta entrata a casa sua, vinto l'imbarazzo iniziale, non seppi resistere alla tentazione di prendere dallo scaffale uno dei suoi tanti libri. Lo sfogliai e rimasi a bocca aperta. Fui immediatamente catapultata in un mondo nuovo dove le regole erano sovvertite. Lettere C seguite dalla K, SC scritto con l'H finale e poi vocale con due puntini sopra. Non avevo mai visto qualcuno scrivere in quel modo. E come leggere quei suoni? Dalla mia bocca non usciva nemmeno una sillaba. Rivolsi al professor Tosin uno sguardo pieno di domande. Lui mi rispose: Donata, imparando le lingue ti puoi salvare. e fece un lungo sospiro che lo fece sembrare ancora più scavato. Non capì che cosa intendesse con quelle parole, ma da quel giorno, per diversi anni, il professor Tosin mi diede lezioni di tedesco ogni settimana. Mi insegnò a parlare, a scrivere e a tradurre la lingua di Goethe. Dopo diverso tempo, un giorno, il vecchio professore venne a fare visita a mio padre. Io ero in un'altra stanza e li sentivo parlare fitto fitto, con un tono grave. Ancora mi sembra di sentire le parole del professor Tosin. Ero in fila, ancora un po' e poi toccava a me. Ho pensato che tanto non avevo più niente da perdere. Quindi risposi che sì, io parlavo tedesco, francese e italiano. E allora un SS, un soldato tedesco, mi diede uno spintone e mi buttò di lato. Ero ad Auschwitz e stavo facendo la fila per il forno crematorio. Fui tra i pochi a tornare a casa. Ho capito che si trattava di una cosa molto seria dal loro tono di voce e dai silenzi di mio padre soprattutto. Io ero in un'altra stanza, li ho sentiti parlare e appunto ero piccola, non avevo una vaga idea dell'orrore dell'Olocausto. E poi lui mai mi aveva parlato della guerra, della prigionia, e quindi ho capito che, diciamo, stava avvenendo un po' una rivelazione, una confessione molto pesante, molto seria, ma io sono rimasta zitta in un'altra stanza ad ascoltare, perché capivo che la cosa era più grande di me, diciamo. Solo allora capii cosa aveva voluto dire il professor Tosin dicendo che le lingue ti possono salvare. Fu uno di quei momenti destinati a cambiare la vita. Un lampo che squarciava il buio della mente per illuminare la realtà come non l'avevo mai vista. Crescendo, ho seguito il consiglio del professor Tosin e ho continuato a studiare tedesco e poi inglese. Anni più tardi, ogni volta che dopo un colloquio di lavoro ottenevo io il posto tra tanti candidati, perché in questa azienda noi cerchiamo una persona con una marcia in più, qualcuno che sappia le lingue, mi dicevano, respiravo a fondo e guardando il cielo mormoravo tra me e me: Vielen Dank, Herr Professor. Non ho mai perso il gusto per il suono delle parole. Ancora oggi posso magari non vedere qualcosa, ma di impararne e ripeterne il nome non posso farne a meno. Forse come tributo alla memoria del professor Tosin, regolarmente, in vita mia, non ho potuto evitare di imparare a contare in arabo o di salutare in giapponese. I sailed the wide, wide sea, climbed up a tall, tall mountain. I met an old, old man beneath the weeping willow tree. He said, now if you got some questions, go and lay them at my feet. But my time here is brief, So you'll have to pick just three. And I said, what do you do with the pieces of a broken heart? And how can a man like me remain in the light? And if life is really as short as they say, then why is the night so long? And then the sun went down and he sang for me this song. See, I once was a young fool like you, afraid to do the things that I knew I had to do. So I played an escapade just like you. I played an escapade just like you. I sailed a wild, wild sea, climbed up a tall, tall mountain. I met an old, old man. He sat beneath the sapling tree. He said, now if you got some questions, go and lay them at my feet. But my time here is brief, so you'll have to pick just three. And I said, what do you do with the pieces of broken heart? Then why is the night so long? And then the sun went down and he played for me this song. Le lingue salveranno il mondo, questo è il titolo di questa puntata densissima, direi. Lo è per la storia che vi racconteremo più tardi, che è una storia molto leggera, molto divertente, ma molto densa per la vita della persona che l'ha vissuta, ma lo è soprattutto per la storia che vi abbiamo appena raccontato, che è la storia di Donata e dell'incredibile figura del professor Tosin. Pronto? Ciao Donata, buongiorno. Buongiorno Matteo, buongiorno. Come stai? Tu dove vivi in questo momento della tua vita? Vivo a Roma, okay. Non vivo più a Vicenza da diversi anni, sì, sono qui per il lavoro, anche se ho la mia famiglia a Vicenza ancora, quindi torno spesso. Com'è la situazione a Roma in questo momento? Tu sei chiusa in casa come tutti? Diciamo sì, sono chiusa in casa come tutti, posso lavorare da casa e diciamo è tutto sommato abbastanza sotto controllo rispetto a Vicenza dove... sì, è un'isola ancora forse non colpita, però chiaramente intorno a zone certo. Dove la situazione è abbastanza pesante, complessa. Come sapete. E tu, tra l'altro, certo. Fai un lavoro che è, come dire, sembra veramente la degna conclusione della storia che ci hai raccontato, giusto? Perché tu sei stata interprete nella tua vita. Sì, diciamo che nella mia vita ho fatto un po' di tutto per arrangiarmi, quindi sì, ho fatto l'interprete, la traduttrice, le pubbliche relazioni, ho fatto davvero di tutto, però alla fine qualsiasi cosa io facessi, anche altri lavori, alla fine finivo sempre a scrivere, a tradurre, a raccontare storie. Quando ho letto la tua certo. storia, io ho pensato che il professor Tosin fosse addirittura qualcosa di più di un mentore, cioè fosse quasi davvero una sorta di figura che appartiene alla storia di tutti noi, non so se mi spiego. Assolutamente sì, e molto di più ancora, perché ti spiego, io sono cresciuta come una bambina molto sola a Vicenza, perché la mia sorellina più piccola era malata di artrite reumatoide e quindi era sempre in ospedale. Io quindi sono cresciuta con una bambina come, diciamo, una sindrome del sopravvissuto, una sorta di senso di colpa perché non ero io quella malata, io ero quella sana. E quindi le storie di chi a sua volta viveva la sindrome del sopravvissuto per me erano un richiamo, qualcosa di radicato nel profondo. Certo. E quando io ho conosciuto il professor Tosin, lui... ha svegliato qualcosa in me. Io non sapevo ancora la sua storia, che avrei saputo solo più tardi, però in qualche modo io avevo da piccola già fatto mia quella frase di Italo Calvino, credo sia: non è la voce che comanda la storia, sono le orecchie. Perciò qualcuno che mi parlasse era una cosa molto preziosa per me. E quando ho incontrato il professor Tosin è stata una folgorazione. Senti, per quanti anni hai conosciuto e hai frequentato il professor Tosin e i suoi insegnamenti? Guarda, io sono nata in quella casa, lui abitava sotto di me, quindi è sempre stato anche una figura semipaterna, diciamo, perché essendo che i miei genitori erano sempre in ospedale ad assistere a mia sorella, io mi aggrappavo un po' a queste figure. Si sente, Donata, che sei una insomma, lo si capisce dalla tua storia, sei una grandissima amante del linguaggio e delle parole. Tra l'altro ne approfitto, insomma, sarà felicissimo un amico molto caro e un nostro affezionatissimo ascoltatore che è Stefano Bartezzaghi, che a proposito di parole e di lingua ne sa, quindi è un maestro. Ogni tanto Stefano mi manda delle mail bellissime in cui mi racconta cosa gli è piaciuto e cosa e no delle puntate, e spero e immagino che questa gli piacerà in maniera particolare. Salutiamo tutti quanti Stefano, tutta la redazione. Senti, invece, lui e il professor Tosin, a te, bambina, ha mai raccontato qualcosa dei campi di sterminio, oppure tu lo sei venuta a sapere in quel modo lì e lui non ha mai approfondito? Assolutamente, lui non mi ha mai parlato di qualcosa del genere. Io vedevo solo una persona molto magra, molto anziana, piuttosto sofferente, e l'unica cosa che sapevo è che lui aveva una pallottola conficcata nel polmone, che però era più un dolore, diciamo, più pericoloso estrarla che lasciarla lì. Ma io ero una bambina delle elementari, quindi non avevo fatto molte domande. È stato solo più tardi che ho saputo e ho ricollegato tutto, e anche questo suo, diciamo, amore, attaccamento alla lingua in maniera spasmodica, cosa c'era dietro. Solo molti anni dopo l'ho saputo. Donata, ti ringrazio molto per la storia e la chiacchierata, che in periodi come questi anche solo poter chiacchierare gli uni con gli altri, lo abbiamo capito, no? Attraverso le telefonate, WhatsApp, eccetera, eccetera, ci fa sentire un po' tutti meno soli, un po' tutti più vicini. Grazie davvero. È vitale, assolutamente. La mia storia continuerebbe molto, ci sono molti altri, diciamo, spunti dopo. Quando chiaramente vuoi. Per questioni di tempo, capisco. Certo. Io volevo solo ringraziare te, Matteo, Anita, tutta la redazione di Linea ed Ombre per permetterci di raccontare le nostre storie, perché poi, come ha detto qualcuno, non racconti una storia solo a te stesso, c'è sempre qualcun altro, anche quando non c'è nessuno. Grazie mille, Donata, in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi, presto. Ciao Matteo. Grazie mille. Buona vita. La puntata di oggi si intitola Le lingue salveranno il mondo, e dopo la bellissima storia che ci ha raccontato Donata, torniamo tra pochissimo, prima le borse in diretta e poi siamo di nuovo qui a raccontare a Linea d'Ombra. Dalla Brexit alla Libia, dal terrorismo internazionale alle proteste di Hong Kong, il mondo è sempre più interconnesso. Ciò che accade dall'altra parte del globo ci riguarda sempre e comunque. Per questo ogni giorno racconteremo storie, proporremo analisi, porremo domande e cercheremo insieme a voi le risposte con esperti internazionali, voci dal campo e reporter dalla prima linea. Sono Giampaolo Musumeci e vi aspetto a Nessun luogo è lontano, dal lunedì al venerdì alle 16, qui su Radio 24. Aiutiamo. Il Sole 24 Ore, insieme a Radio 24 e Radio Cor, sostiene le strutture ospedaliere sul territorio impegnate nell'affrontare l'emergenza coronavirus. L'ospedale di Alessandria ha bisogno di te e per noi è la notizia più importante di oggi. L'azienda ospedaliera nazionale Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, con i suoi medici e tutto il suo personale, sta lavorando senza sosta per fronteggiare il Covid-19. Aiuta anche tu con una donazione straordinaria per affrontare tempestivamente questa emergenza. Hashtag insieme ce la faremo, hashtag sole per ospedale Alessandria. Per tutte le info s24ore.it/aiutiamo. Linee d'ombra. Come più o meno vi raccontiamo, noi qui a Linee d'Ombra partiamo sempre da una vostra storia, cioè dalla storia di un ascoltatore, che in questo caso è la storia di Donata, e poi ci attacchiamo un'altra storia, una storia che raccogliamo dovunque possiamo, dovunque ci siano delle storie che qualcuno racconta e dove noi possiamo raccoglierle e poi restituirvele. In questo caso la prossima storia riguarda un luogo in cui si raccontano le storie dal vivo. Il luogo si chiama Mio Cugino, è una serata che Mauro, il nostro Mauro Pescio, fa una volta al mese a Roma, cioè fa quando ovviamente non siamo in una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo, quindi quando ci si può trovare in un locale, quando soprattutto i locali sono aperti. Insomma, a furia di dire quando, più o meno sto andando ad un'epoca che sembra non esistere più o a un futuro che chissà quando arriverà. Tant'è, a Mio Cugino si raccontano storie e la prossima storia arriva esattamente da lì. Inizia così: negli anni 90 facevo l'università alla facoltà di architettura ed ero fuori corso, ma oltre ad essere in ritardo con gli studi, io avevo un problema in più. Sono straniero, ero entrato in Italia con un visto per studio che ogni anno dovevo portare in questura per rinnovare. Ecco, questo è proprio l'inizio. Il protagonista si chiama Abbas, è un architetto di Baghdad che negli anni 90 stava studiando proprio qui in Italia, a Roma, e ha raccontato la sua storia a Mio Cugino, e in questa puntata la seconda storia è la sua. State con noi. L'anno precedente ero andato in questura con tutti i documenti per rinnovare il soggiorno. Ero ancora in regola con gli esami, avevo proprio tutto. Ma noto che il poliziotto che controlla il mio libretto lo sta leggendo con molto interesse. «Hai dato analisi 1?» mi dice. «Sì, anche statistica?» «Sì, io vado bene con la matematica», gli dico. «E con chi hai fatto analisi 1?» mi chiede. «Ma perché lei è un collega?» «Sì, faccio architettura pure io», mi dice. «Però ho problemi con queste materie». Penso, finalmente un collega, perché ogni anno per rinnovare il soggiorno era sempre una sofferenza. Quindi comincio a rilassarmi, gli dico che posso aiutarlo con quegli esami, quindi parliamo dei professori. Insomma, parliamo per un po', lui però rosicava non poco, era molto invidioso, e quindi a quel punto comincia a darmi del lei. Ma lui rosicava, io lo sentivo che non era molto normale, improvvisamente comincia a darmi del lei. E mi fa, ma quali sono i tuoi mezzi, i suoi mezzi di sostentamento? Dico, c'ho il libretto della posta con un po' di... Guarda e vede un po' di movimenti, di denaro. E questi soldi da dove li arrivano? Con lavoro io faccio l'interprete, perché al tribunale viaggio... Ah, lo sa che io non posso rinnovare il foglio di soggiorno? Perché? Perché lei non ha il diritto di lavorare. Perché c'ha il visto per studio. Era il 1991 e io sono iracheno di Baghdad. L'America stava per attaccare Saddam Hussein, per me era impossibile tornare in Iraq. E quindi quando lui mi dice questa cosa mi spavento molto. Per fortuna, qualche giorno dopo, richiedo un appuntamento in questura con il capo ufficio, che ovviamente mi dà ragione e si arrabbia molto col poliziotto, con quel mio futuro collega architetto. Ma questo precedente però mi spaventa ancora di più, tanto che l'anno successivo scopro che non sono a posto con gli esami dati e rischio quindi di non ottenere il rinnovo. Dunque mi serve una materia da dare al volo per completare il numero di materie da dare ogni anno. Chiedo agli amici quale esame potrei fare e alla fine qualcuno mi dice: «Io ho da poco dato storia dell'arte contemporanea con Achille Bonito Oliva, un mesetto di studio, sì, ce la puoi fare». L'amico mi porta tre libri, tutti scritti dal professor Bonito Oliva, e dei quaderni di appunti. Io però allora facevo ancora fatica a leggere la scrittura a mano, e quindi alla fine non me ne sarei fatto nulla. Però mi dice: «C'è un problema». Eravamo giovedì, mi dice: «Lunedì fanno l'appello ed è l'ultimo di questa sessione». Io stavo andando a Milano per lavoro, c'era una conferenza, dovevo fare la traduzione simultanea in un convegno. La sera stessa comincio a sfogliare i libri, penso che non ce la farò mai. È pieno di frasi incomprensibili, concetti difficilissimi, che so dove iniziano ma non so dove finiscono. Però mi viene un dubbio. È vero che sono straniero, ma io ho sempre amato leggere. Penso, come mai non riesco a capire questa scrittura? Vado dalla mia fidanzata, che lei ha fatto liceo classico, studia giurisprudenza, le chiedo di leggere qualche pagina e anche lei mi dice: «Ma che roba è questa? Chi l'ha scritta? Di cosa parla?» Io dico: «L'ha scritta il più importante critico d'arte italiano, parla dell'avanguardia e della transavanguardia». «Ah beh», mi dice lei, «ma non si capisce niente, come fai a dare una materia così?» Io continuo a leggere quel libro e leggendolo vedo con precisione un dettaglio. Le frasi non arrivano mai da nessuna parte. sono solo parole molto forti, altisonanti, che alludono e rimandano ad altro, senza però mai arrivare veramente ad un punto. La cosa mi fa un po' arrabbiare, anche perché io allora abitavo in una palazzina mezza occupata con tre pittori che odiavano i critici d'arte. E quindi anche io, per solidarietà, avevo un certo risentimento verso i critici d'arte. Spinto da questa motivazione, penso proprio che io questa materia la voglio dare. Il giorno dopo devo andare in treno a Milano. Sono per molte ore in viaggio e quindi prendo questo libro e decido per una strategia. Mi dico, ok, loro ci vendono questi libri e io voglio rivendere a loro la stessa cosa. Io dico, questi libri, se li leggo tutti, con tutti i nomi che ci sono, tutte le mostre, tutti i concetti, non riuscirò in 14 ore a ricordare tutto quanto. Quindi decido di fissarmi alcuni nomi, pochi nomi, pochi eventi, e soprattutto di leggere velocemente per assorbire il linguaggio di questi libri. Un linguaggio del cavolo che non dice niente, però dice delle parole che fanno pensare a qualcosa. Avevo già la luna e Urano nel leone, il mare nel cassetto, le mille bolle blu. Da quando sei andata via non esisto più. Il mondo è grigio, il mondo è blu. Mi impegno molto e passo tutto il viaggio per Milano a parlare con quel tipo di linguaggio che c'è nel libro. Parlavo da solo, non capivo quello che dicevo, ma lo dicevo lo stesso e così mi allenavo all'esame. Durante il viaggio poi mi sono ricordato un gioco che facevamo al liceo. Noi arabi siamo appassionati di poesia ed era capitato spesso che ci incontrassimo e uno di noi lanciava un tema e gli altri improvvisavano con delle rime. Noi facevamo anche un gioco molto divertente in cui ognuno di noi scriveva delle parole a caso e poi le mettevamo tutte in un sacchetto e se ne tiravano fuori quattro per volta e da lì si dovevano creare dei componimenti. Frasi fantasiose, poesie, quello che uscirono fuori delle cose divertentissime. E mi ricordo una di quelle frasi era: l'ha tirato fuori un amico perché ha trovato questa parola, gli abbiamo messo questa parola e lui li doveva mettere insieme. È diventato il motto del nostro gruppo al liceo e questa frase che lui aveva costruito diceva questo, se mi ricordo bene, era... come si chiama la sigaretta quando è fischi? La cicca? Una cicca addormentata sul tetto ignara delle sue proprietà, perché c'erano quelle le parole. E quindi noi l'abbiamo trovato bellissimo, questa cicca addormentata che c'ha un sacco di proprietà, non lo sapeva. E quindi io al gioco non era per me così nuovo, insomma, questo gioco sapevo qualcosa. Mi presento all'esame con i libri preparati benissimo, sono pieni di fogliettini e di pieghe negli angoli. Porto anche dei libri d'arte miei, visto che ero veramente appassionato di arte, per dimostrare che avevo addirittura approfondito l'argomento. Il prof lo nota subito. Finalmente, uno appassionato di arte, dice al suo assistente. E cosa ci ha portato oggi? Io, sicuro di me, dico: vorrei partire da Kandinsky e parto a razzo. Secondo me Kandinsky è il primo pittore delle avanguardie che fa implodere il sistema dell'arte al di là del soggetto. Lui nega il soggetto e nega se stesso, e attraverso queste negazioni da due mondi non rimane nemmeno il simbolo che sta all'interno di un mondo. Il professore fa la faccia molto seria e mi ascolta. Io sparo parole che se lui mi fermasse e mi chiedesse che cosa intendi con questo, io probabilmente crollerei. La mia strategia era proprio quella di non concludere mai. Perché se finivi dovevi dare la conclusione, ma io non avevo la conclusione. Quindi dicevo sempre c'è qualcuno che nega l'altro. A questo punto è tutta una negazione che però la società si porta addosso e nel suo sistema complessivo cerca di risolvere il problema. L'artista non è l'unico attore, ma... Ha detto ok, aspetta. E mi ha detto, e in questo come inserisci Paul Klee? Ho detto, ci stavo arrivando a questo. Abbiamo continuato questo gioco. Alla fine non sapevo cosa aspettarmi, se un 18 perché non avevo capito niente, oppure un 18 perché gli facevo tenerezza in quanto straniero e iracheno. Invece, Bonito Oliva bisbiglia un po' con l'assistente e mezzo scherzando mi fa: ti sta bene 30 elode? E io gli rispondo: sono molto contento che tutti i miei sforzi per studiare questa materia siano stati riconosciuti. Si chiama Mio Cugino, la serata in cui Mauro invita delle persone a raccontare su un palco a Roma queste storie, e se avete voglia potete riascoltarle in podcast ovviamente, oppure potete andare a sentirle se siete a Roma. Il locale si chiama Big Star, insomma, se cercate Mio Cugino lo trovate sicuramente, trovate magari le prossime date, ancora no, però quando tutto sarà possibile e quando torneremo a una vita normale sicuramente lo farete. Intanto cercatelo sui social, Mio Cugino. Ora ascoltiamo Le Strade in diretta e poi torniamo a raccontare i vostri diari della quarantena qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra. Da ormai qualche settimana vi stiamo raccontando i vostri diari di questa quarantena, e lo diciamo sempre, no? Diciamo: raccontateci come state passando, come state trascorrendo le vostre giornate chiuse in casa, se avete il privilegio di stare in casa, perché ci sono altri invece devono continuare a lavorare, ed è proprio questo il caso. La prima storia, ve ne raccontiamo due di diari perché sono abbastanza brevi, quindi li abbiamo messi insieme, ma entrambi hanno a che fare con persone che continuano a lavorare, che non si fermano perché devono e perché fanno parte di quella filiera che è costretta a continuare a lavorare. La prima storia arriva da Matteo, che sta a Pavia, che si alza a un'ora che più che del mattino direi della notte per fare le consegne, e soprattutto in chiusura del suo diario ci racconta di come sia obbligato a stare lontano da sua figlia, perché purtroppo sua figlia è in un'altra regione, in un'altra città, perché lui e sua moglie stanno lavorando e quindi si trova con la nonna. La prima storia, Matteo. Buongiorno Matteo. Chi ti scrive è un ragazzo che non si è fermato nemmeno un secondo da quando è scoppiata l'epidemia del Covid-19. La mia giornata inizia alle 2 di notte, quando esco di casa per andare a caricare il primo giro di consegne. Io trasporto medicinali e rientro verso le 8 del mattino. Senza nemmeno potermi fermare per un caffè o una colazione, perché è tutto chiuso. Dopo un riposino riparto alle 12 per il giro del pomeriggio, che dura fino alle 17.30. per poi tornare a casa e videochiamare mia figlia, perché purtroppo quando hanno chiuso le scuole e gli asili, mia figlia compie 3 anni a maggio, l'abbiamo portata da nostra suocera a Reggio Emilia, perché noi lavorando entrambi non sapevamo come fare e adesso non possiamo nemmeno andare a prenderla, per paura che nel tragitto Pavia-Reggio ci fermi qualche forza dell'ordine e ci dia una multa o peggio una denuncia. Ah, alle 8 della sera sono già a letto, pronto per ripartire il giorno dopo. Un saluto e un abbraccio. Matteo da Albuzzano, provincia di Pavia. Il prossimo diario di questa quarantena invece arriva dai luoghi che tutti ormai abbiamo imparato a conoscere, soprattutto i più fortunati, dalle immagini che ci arrivano quotidianamente dai telegiornali, dalla TV, dal digitale, eccetera, eccetera, gli ospedali. Dentro gli ospedali ci sono queste persone che di mestiere fanno già quello che sono abituati a fare, cioè a salvare le vite, e in questo periodo cercano di farlo all'ennesima potenza. La prossima storia è di un medico, lei si chiama Miriam. Questa storia l'ha scritta in terza persona, cioè è come se Miriam non fosse lei, quindi parla di questa Miriam, di questa dottoressa, che è una dottoressa del pronto soccorso, in terza persona, non usando io ma usando lei. Non so se Miriam ha usato questo escamotage per provare a raccontarsi guardandosi da fuori, o forse per provare a raccontarsi senza essere troppo coinvolta emotivamente in questo racconto, perché una delle cose che abbiamo imparato a capire anche dai racconti di medici, infermieri, operatori sanitari in genere, è che questo momento non è duro solo ed esclusivamente perché i ritmi sono altissimi, perché il fisico è molto provato e perché da un punto di vista professionale sono portati allo stremo delle forze, ma perché emotivamente per queste persone, che certo sono dei professionisti ma sono degli esseri umani, emotivamente è davvero molto molto duro. E quindi Miriam, non so qual è il motivo per cui ce l'abbia raccontata in terza persona, ma ce l'ha raccontata così, e parte con un antico detto, ed è un diario bellissimo. Ogni generazione conosce 36 giusti, ossia 36 uomini dalla cui condotta dipende il destino dell'umanità. Secondo la tradizione ebraica, svolgerebbero lavori umili e verrebbero sostituiti dopo la morte. Lesse queste parole su Wikipedia con aria scettica, Miriam, la dottoressa del pronto soccorso, riflettendo su quanto però le sarebbero state utili 36 persone in ospedale a far fronte a questa terribile emergenza, per cercare non tanto di salvare il mondo, quanto almeno di salvare il salvabile. Ma a queste leggende non aveva mai creduto. Miriam, poca fede ma tanto cuore, fece tesoro delle poche ore di riposo disponibili prima di tornare a combattere in prima linea assieme ai suoi infermieri guerrieri. Arrivata al pronto soccorso, trovò un regalo inaspettato. La regione aveva mandato in supporto altre 5 infermiere da altre località. «Ottima notizia, Rachele, quindi oggi quanti siamo?» chiesi. 35, si affrettò a rispondere soddisfatta la coordinatrice. Miriam non poté nascondere un ghigno. Accidenti, ancora uno e avevano ragione gli ebrei, pensò. Sorrise. Era una di quelle giornate in cui ti svegli ottimista, nonostante tutto, e sai che qualunque ostacolo ti si dovesse parare davanti, tu non ti fermerai. Concentrata a seguire le procedure della vestizione, non si accorse di una presenza alle sue spalle. Una ragazza giovanissima e dall'atteggiamento timido attirò la sua attenzione. «Buongiorno dottoressa, sono Simonetta, sono la nuova infermiera, mi hanno detto di chiedere di lei». Miriam ebbe un improvviso sussulto, deglutì. L'unico semplice pensiero che le risuonava in testa fu 36. «Dottoressa, tutto bene?» «Certo, Simonetta, tutto meravigliosamente bene. Che cosa devo fare, dottoressa?» «Miriam, mi chiamo Miriam». «Vieni, Simonetta, andiamo a salvare il mondo». Language, it's a virus. and I was saying I wanted you, and I was looking for you, but I couldn't find you. I couldn't find you. And he said, hey, you talking to me? Or are you just practicing for one of those performances of yours? Hot language, it's a virus. Tell the judge that it was you. And I had to sell the car and go to Florida because that's just my way. Grazie davvero, grazie a Matteo e grazie alla dottoressa, grazie a Miriam per questi loro diari, per quello che fanno innanzitutto e per questi loro diari della quarantena. Se avete voglia anche voi di condividerlo con noi, non dovete per forza essere attivi, potete anche essere tra quelli che sono fortunati come me ad esempio, che il vostro lavoro lo potete fare da casa. Ecco, mandateci il vostro diario di una quarantena, linee d'ombra@radio24.it. Continuiamo invece a raccontare la storia di Anna Maria. Anna Maria ha davvero una storia avvincentissima e che ci sta condividendo in pieno. È la storia di una donna che decide di avere in maniera scientifica e in maniera integerrima quasi un rapporto col cibo di totale esclusione. È l'ultima storia che vi raccontiamo, l'ultima storia seriale che vi raccontiamo, che ha a che fare con un vizio capitale, in questo caso il vizio della gola. Lei a un certo punto decide che il cibo non farà più parte della sua vita perché ha deciso di fatto di autodistruggersi. Poi fortunatamente entra in una clinica e lì cambia idea, la cambia anche grazie alle persone che incontra, e questa è la sua storia. Nel momento in cui mi rendo conto che devo superare anche questa cosa con l'analisi, la psichiatra mi fa notare che io fino a quel momento il cibo l'avevo utilizzato come, anche in quel caso, strumento di, chiamiamola così, perfezione. Nel senso che cucinavo bene, però per gli altri, non per me, per il gusto di cucinare. E mi ha detto, tu cucini bene, non mangi, parliamone. E quindi era come se questo prendersi cura degli altri, perché cucinare è un atto d'amore, in realtà fosse solo uno strumento quasi inconscio per manifestare un po' di amore anche per me. Perché io in tutti quegli anni l'amore per me non lo avevo mai dimostrato. Non è che quando fai la doccia tutti i giorni o vivi in una casa pulita lo fai per amore nei tuoi confronti. Se vivi in una casa pulita con gli altri è amore per gli altri. Se ti lavi tutti i giorni è quantomeno rispettare delle regole di buona convivenza. Ma non lo si fa per amore verso se stessi. E io non avevo mai fatto delle cose esclusivamente per me. Non avevo mai scelto, davvero. La psichiatra mi ha fatto la domanda e mi ha detto perché tu cucini per gli altri, fai le cose, vai, fai la spesa, hai sempre la casa così, anche quando non mangiavo era così, non è che improvvisamente il frigo era vuoto, la dispensa si sentiva l'eco, e non mangi, cioè non trovi da questa cosa alla quale tu dai tanta cura, non trovi nulla di piacere, spiegati questa cosa. Ma io non sapevo spiegarmi proprio nulla. Chiedevo a lei una soluzione, ma lei aveva il compito di pormi delle domande a cui avrei dovuto trovare io la risposta. E può anche essere che ci voglia molto tempo per trovare le risposte giuste, e può essere anche che non si trovino, ma la domanda mi era stata posta e una soluzione dovevo sforzarmi di trovarla. Ed il cibo, gli alimenti, la cucina sono stati una chiave. Ho cominciato a guardare il cibo in modo diverso. Mi sono detta, ma vuoi vedere che il cibo sarà quella cosa che farà uscire da me la vera me? Ecco perché io lo considero una sorta di arte della maieutica, perché ha veramente fatto uscire da me la vera me, imperfetta, ma me. Quindi ho cominciato ad osservare il cibo, sempre in maniera scientifica, ma con un'idea edonistica molto diversa da prima. Per me è stato un edonismo culturale che mi ha attratto. Ho cominciato ad appassionarmi dal punto di vista culturale al cibo e mi sono resa conto che il cibo poteva raccontare delle storie meravigliose e che avrebbe potuto nutrirmi interiormente, che poi era il nutrimento di cui avevo bisogno come il pane. Grazie Grazie davvero ad Anna Maria per la storia che ci racconta, grazie anche per aver usato la parola edonista, che poi significa epicureo, che è legato al piacere, che è una parola che si usa poco e invece soprattutto in periodi come questi dovremmo darci a qualche strana forma di edonismo, anche se siamo chiusi nella nostra casa, proprio a un materialismo puro, a cercare il piacere per il piacere, nel cibo magari, ecco, non troppo, perché altrimenti quando ne usciamo siamo tutti 20 kg in più, ma tant'è, insomma, un pochettino come ci pare. Grazie a lei che ce la racconta, grazie a Mauro Pescio che la racconta. Grazie a tutti voi che continuate a mandarci le vostre storie, lineedombra@radio24.it, una storia che abbia a che fare con un confine, prima eravate di qua e poi eravate di là, questa è proprio la definizione in sé di un confine, oppure una storia che parli della vostra quarantena. Grazie ad Anita Panizza, grazie a Paolino Corleoni, grazie a Luca Micheli, grazie a Mauro Pescio. Noi torniamo domani per raccontare storie, perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!